splendeva d'oro e di brillanti la riviera, e palpitava nei giardini primavera, fioriva il sogno tra suoni e canti, nasceva il nostro amore. E nel ricordo che restò di quella sera, io ti ripenso ancora. Maria, quel bel paese dov'è più dolce sognar l'amore. Maria, tu mi ricordi l'azzurro cielo, l'azzurro mare. Maria, bellezza amara, passione ardente di questo cuore. Tu mi fai sognare di ritornare vicino a te. La bella luna già spuntava a mare chiaro, si inargentava la barchetta marinaro. Penso se triste tu sospirasti, chissà se torni più. Il rivederti mi sarebbe tanto caro, qui dappertutto sei tu, Maria. Del bel paese dove è più dolce sognar d'amore. Maria, tu mi ricordi l'azzurro cielo, l'azzurro mare. Maria, bellezza amara, passione ardente di questo cuore. Tu mi fai sognare di ritornare vicino a te. Maria, bellezza amara, passione ardente di questo cuore. Tu mi fai sognare di ritornare vicino a te.